spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Siete tornati, siamo tornati, 25 agosto e strade che ritornano piene, trafficate anche al mattino presto. Una buona giornata da Irene Zerbini a Peter Bescapè dietro il vetro, perché senza di lui non andremmo in onda oggi, e ha minacciato la defezione fino all'ultimo se non concedevo, non è vero, di salutarlo dall'inizio. E poi con noi anche Laura Faggin e gli altri autori della trasmissione, Lucia Tolvé naturalmente, che ringraziamo e salutiamo. Cominciamo con quella che sarà l'ultima settimana per questo Spunti di Vista. E oggi ci chiederemo: come si misura la memoria? Ce lo siamo mai chiesti? Qual è l'unità di misura della memoria? Perché questa è una di quelle unità, appunto, unità di misura che abbiamo scoperto occupandoci di uno dei temi di Spunti di Vista oggi. Intanto potete cominciare a mettervi in contatto con noi prenotando le vostre telefonate all'800 24 00 24 e anche via SMS al 349 238 6666. Dalle 9 in poi, dopo aver affrontato lo stato di degrado di quelli che dovrebbero essere dei templi della memoria in Italia, in particolare ci soffermeremo sull'archivio centrale dello Stato. Ci sono migliaia e migliaia di scritti che documentano la storia del nostro paese, dall'Unità d'Italia a oggi. Per citarne uno, c'è l'archivio di Francesco Crispi, politico risorgimentale, più volte presidente del Consiglio nell'Ottocento. Ma c'è davvero molto, e vorremmo chiedervi, per esempio, tra gli archivi di personaggi dello spettacolo, per andare un po' fuori dall'ambito politico, è presente anche quello di Peppino De Filippo, l'attore, come biografo lo ricorderete, e contiene questo archivio la sua corrispondenza, la documentazione relativa al teatro, al cinema, alla televisione. Naturalmente ci sono i copioni delle sue commedie, foto, ritagli di stampa, tutto materiale dal valore inestimabile. Se poteste voi attingere o consultare o farvi chiudere a chiave dentro una delle stanze dell'archivio centrale dello Stato, e cosa chiedereste? Cosa consultereste? Qual è la curiosità storica sul nostro paese che più vorreste vedere in qualche modo soddisfatta? Ditecelo e ne parleremo dalle 8:30. Andremo poi dalle 9 a chiederci integrazione, immigrazione. Ci si interroga in questi giorni sugli jihadisti occidentali, ma nello stesso tempo ci si interrogava l'anno scorso di integrazione, di cittadinanza. Questi sono tutti discorsi che ormai sono stati accantonati di fronte a quanto avviene in Medio Oriente. Tutto quello che vediamo, l'orrore che ogni giorno entra nelle nostre case, in qualche modo riporta indietro tutte le conquiste in termini di integrazione che erano state fatte in Occidente. Si diffonde di nuovo il sospetto, il facciamoci fatti nostri. E intanto vediamo anche morti di famiglie intere che scappano dalla guerra per venire da noi, affondano a largo delle coste italiane. Abbiamo visto di tutto in questa settimana. E poi scopriamo, in mezzo a questa confusione, che ci si può aggrappare ai numeri. E abbiamo preso un dossier statistico, Immigrazione 2013, dei numeri più accurati e aggiornati possibile su quella che è la situazione in Italia. E cosa ci dicono? Il primo dato sottolineato è che l'immigrazione in questo caso, perché siamo paese ospitante, porta un beneficio per le casse dello Stato di 1.400 milioni. Cioè, cosa significa? Il rapporto tra spesa pubblica e dall'altra parte invece i contributi previdenziali, le tasse pagate dagli immigrati di casa nostra, mostra di fatto che gli introiti sono superiori alle uscite, per questa cifra che abbiamo detto, una differenza in positivo per il sistema paese di 1.400 milioni. È vero invece che l'Italia semmai sostiene spese, e anche di portata rilevante, più che per le politiche di integrazione, per quelle situazioni emergenziali che tutti conosciamo, cioè gli interventi di contrasto all'irregolarità, gli interventi di gestione dei flussi.

Torniamo a parlare di memoria, perché vi abbiamo chiesto se poteste essere chiusi a chiave in una stanza dell'archivio centrale dello Stato. Cosa vi piacerebbe consultare? Ebbene, vorrei sapere i carteggi dei due e purtroppo unici, questo è molto laconico come messaggio, veri personaggi politici italiani del secolo scorso, dice Giorgio da Mantova, cioè Mussolini e Andreotti. Tutte le opinioni sono benvenute. Io consulterei l'archivio di Stato per conoscere il numero esatto di ebrei italiani prima delle leggi razziali, prima della deportazione e della fine della guerra. E anche questa è una curiosità che ci è arrivata al 349-238-6666, nel senso, perché vorremmo essere chiusi un giorno in questo archivio di Stato e dove esattamente, a che altezza per poter accedere a quali carte. Intanto saluto e ringrazio Agostino Attanasio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Il professor Attanasio è il sovrintendente dell'archivio centrale dello Stato e abbiamo scoperto grazie a lei che l'unità di misura della memoria non sono i RAM, non sono i neuroni, ma sono i chilometri. Quanti chilometri di documenti avete nell'archivio centrale dello Stato? Ma noi conserviamo 120 chilometri di carte. Per la verità, per un archivio più piccolo l'unità di misura possono comunque essere anche metri lineari, insomma. Comunque siamo metri, diciamo, o chilometri, no, per lei sarà normale, ma per noi è una scoperta completa scoprire che la memoria si misura in chilometri di scaffali. Attanasio, lei fa... Permetti, aggiungo che anche l'idea di misurare la memoria in base alla RAM non è del tutto sbagliata, nel senso che noi dovremo nel prossimo futuro conservare anche gli archivi digitali e naturalmente non li misureremo con la RAM ma con i terabyte. Chiaro. E questo è una questione, questa della digitalizzazione, molto importante, perché si risolve poi in eliminazione di grandi spazi. Prima di entrare nel merito di un allarme che è stato lanciato e che vorremmo anche in qualche modo rendere un po' più accurato, precisare, proprio grazie al suo intervento, ricordo a memoria, mi creda, il numero di telefono di Radio 24 800 24 00 24 se volete intervenire. È stato scritto da Repubblica la settimana scorsa, potrebbe chiudere l'archivio centrale dello Stato, e quindi ci siamo chiesti, ma l'Italia è senza più memoria, ma veramente rischiamo una perdita di un patrimonio inestimabile di milioni di documenti di questo tipo, professor Attanasio? No, questo rischio per la verità non c'è, diciamo è una forzatura anche comprensibile dal punto di vista giornalistico, ma è una forzatura, ossia nell'intervista io avevo detto che quest'anno chiuderemo il bilancio con un po' di fatica. L'allarme c'è per il prossimo anno, perché se le risorse a partire dal 2015 rimarranno quelle che ci sono state date quest'anno, allora è impossibile chiudere in pareggio il bilancio, che per noi significa non tanto chiudere e perdere le carte, ma avere un'amministrazione straordinaria dell'archivio. Ecco. Proviamo a fare una specie di contabilità radiofonica dei numeri, di quello che c'è, di quelle che sono le spese e di quello che servirebbe per coprirle. È stato detto, voi ora dove vi trovate innanzitutto? Quali sono gli edifici che ospitano l'archivio centrale dello Stato? Noi siamo a Piazzale degli Archivi, occupiamo due dei tre corpi di fabbrica che furono progettati e realizzati in parte però per l'esposizione universale del 42. Per chi non è romano, Piazzale degli Archivi è in zona Eur, assolutamente Eur. È un edificio splendido, bellissimo, ci sono, al di là del fascino ovviamente di quello che vi conservate, è un edificio che tra l'altro a ogni piano può vantare dei soffitti alti 6 metri. Questo è uno degli elementi che lo rende anche molto costoso per la manutenzione. Per esempio, solo per dare una cifra, un esempio, professor Attanasio, di energia elettrica ogni anno quanto dovete pagare? Purtroppo l'energia elettrica è la voce più rilevante. Noi spendiamo circa 200.000 euro di energia elettrica. E di affitto? E naturalmente l'affitto non lo paghiamo noi. Ecco, quando io faccio, diciamo, la mia contabilità interna, non calcolo l'affitto, perché sta iscritto nei ruoli del bilancio dello Stato, voce Direzione Generale Archivi, però in effetti l'affitto incide. Noi paghiamo, IVA compresa, 5 milioni di euro l'anno ad una società che è Eurospar, Eurosocietà per Azioni, che è una società a partecipazione pubblica, completamente pubblica. Per il 90% appartiene al Ministero dell'Economia e per il 10% al Comune di Roma. Quindi lei non trova che sia questo affitto sostanzioso uno dei problemi che potrebbe portarvi ad avere difficoltà col bilancio? Per noi Archivio Centrale non è questo il problema. Per noi come istituto, semmai è un problema più generale, come dire, di spese dello Stato. Questo è un altro discorso però. Però lei dice, specifichiamolo, professor Attanasio, perché sui giornali è passata così, come uno di quegli affitti esosi che nella spending review dovrebbe essere sforbiciato a beneficio dei contribuenti. Come stanno le cose, non tanto e non solo dal punto di vista contabile, ma proprio dal punto di vista del senso di questa spesa? Sì, del significato. Allora, quindi eliminiamo il problema del nostro bilancio Archivio Centrale dello Stato. Guardi, io la vedo in questo modo. Premetto che molto probabilmente si tratta di un esborso annuale eccessivo. La cosa più semplice sarebbe stata di dire impieghiamo questi soldi per costruire una nuova sede e probabilmente in 10 anni ne avremmo fatta una splendida, non c'è dubbio. E queste cose sono state dette, sono state prospettate in diverse occasioni. Però come lei ha spiegato, in realtà questi 5 milioni sono un falso problema, nel senso che costituiscono un trasferimento, diciamo così, da strutture pubbliche ad altre strutture pubbliche, per cui se li diminuissimo certo diminuiremmo le uscite ma probabilmente anche le entrate. Approfondiremo questo tema in un altro momento, perché ci interessa adesso entrare nel vivo di quello che voi conservate. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. .46 e continuano i vostri messaggi al 349-238-6666. C'è chi ci precisa: non misureremo la RAM con i terabyte, i byte sono l'unità di misura della RAM. Ora, io capisco benissimo ovviamente che siate molto accurati e profondi conoscitori della tecnologia, ma cerchiamo anche di capire cosa si intendeva dire dal punto di vista del nostro ospite, che è il sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, che ha a che fare con documenti, con memorie, con pezzi di storia d'Italia, e che ha cercato di adeguarsi alla domanda che noi oggi abbiamo sottoposto sull'unità di misura della memoria. Soprattutto vi abbiamo chiesto se lei, se voi, se tu potessi essere rinchiuso per un po' in una stanza dell'Archivio Centrale, quale sceglieresti per cercare che cosa? Paolo, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Paolo, da dove chiama? Da Bologna. Lei dove vorrebbe essere rinchiuso? Cosa vorrebbe consultare nell'Archivio Centrale dello Stato? Beh, io sarei molto interessato a quello da cui è nata la nostra Repubblica, cioè praticamente dal referendum sulla monarchia o sulla Repubblica, in quanto, come tutti sappiamo, è stato molto controverso e alla fine è stato fatto un tra virgolette il classico popocchio all'italiana, in quanto la magistratura ancora si doveva, su richiesta dei monarchici, voleva sapere se i voti erano regolari, e invece il Parlamento, non aspettando la magistratura che si, diciamo, dicesse la sua, dichiarò le votazioni valide con la vittoria della Repubblica, come tutti noi sappiamo. E ci sono molti dubbi su questo, per cui io credo che dentro l'archivio, anzi spererei di trovare scheda per scheda e poter fare io, anche se ci metto 2 mesi, il riconteggio di tutti i voti e vedere come veramente andranno le cose, anche perché alla luce attuale di come sta andando l'Italia non sono poi così convinto che la vittoria della Repubblica abbia cambiato in meglio la nostra vita. Grazie Paolo Paolo da Bologna vorrebbe essere rinchiuso dentro l'archivio centrale a ricontare le schede di quel referendum. Ma pensate all'importanza di questo posto, immaginate anche di scrivere, ma anche la storia di questi giorni, le informazioni che circolano sono tutte soggettive, quindi è chiaro che anche Paolo l'ha sottolineato, i documenti, cioè gli elementi concreti che hanno fatto la storia, diventano fondamentali. Ora le chiedo, professor Attanasio, il desiderio di Paolo potrebbe essere soddisfatto, cioè conservate anche le schede di voto di quel referendum del 46, Repubblica no. Monarchia? No, quelle no, schede no. Perché... No, non quelle. Non conserviamo le schede delle votazioni per un semplice motivo, perché intanto vengono raccolte e conservate a livello locale e poi, quindi a noi non arrivano, vengono raccolte sul territorio. E poi il secondo motivo è che una volta che siano state convalidate, trascorso un periodo di 5 anni, vengono scartate. Quindi cosa conservate per dare un'informazione corretta? Sappiamo che a breve entrerà a far parte del vostro archivio tutto il fondo Gramsci, quindi nuovi documenti, carte personali, epistolari, quaderni dal carcere, questo l'abbiamo letto sulle cronache. Che altro avete nell'archivio centrale per chi si interrogasse in questo momento? Ma guardi, lo scheletro della nostra struttura, diciamo, di conservazione è costituito dagli archivi che sono prodotti dagli organi centrali dello Stato, ossia soprattutto i ministeri. La Costituzione ci chiedono gli ascoltatori? Ecco, ce l'abbiamo, per un motivo, perché oltre agli archivi dei ministeri, forse lo scheletro istituzionale che rappresenta meglio la funzione dell'archivio centrale è dato dalla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. Noi conserviamo, in originale naturalmente, tutta la collezione di leggi e decreti a partire dalla prima legge del 1861, e quindi conserviamo anche la Costituzione, l'originale della Costituzione, con le firme autografe dell'allora presidente dell'Assemblea Costituente Terracini, di De Gasperi e del ministro di giustizia Grassi. E poi avete moltissimi chilometri di carteggio relativi anche al Risorgimento. Sì, naturalmente i ministeri hanno prodotto carte a partire dall'Unità d'Italia. Ecco, per la parte precedente noi non abbiamo nulla. Per la documentazione che riguarda la formazione dello Stato unitario, ossia i moti risorgimentali, che hanno poi portato all'unità, noi non abbiamo quella documentazione. Le nostre carte cominciano dall'Unità d'Italia, quindi dal 1861, con qualche piccolo slittamento, forse il più importante all'indietro, forse il più importante è il primo verbale del Consiglio dei Ministri tenuto da Camillo Benso Conte di Cavour, 1859. E voi avete il verbale, quindi c'è la prova. E recentemente vi siete dedicati anche in una mostra o in un libro addirittura che ci ricordano i nostri ascoltatori al 349-238-6666, circolato proprio sulla base dei vostri documenti, relativi alle lettere di Mussolini a Clara Petacci. Sì, quello è un archivio che ha una storia molto particolare, perché fu trovato nel 1950 a Gardone ed era l'archivio di Clara Petacci. È stato poi consegnato a quello che allora era l'archivio centrale. Sono state una serie di vicende giudiziarie che però hanno sempre confermato il carattere pubblico di questo archivio e quindi la legittimità del fatto che questo archivio stava da noi all'archivio centrale. Noi abbiamo pubblicato 2 anni fa, mi pare, le lettere di Mussolini a Clara, è un libro edito da Mondadori, e abbiamo fatto, come dire, un'operazione a mio avviso importante, perché abbiamo in qualche modo anticipato i termini per la consultabilità di carteggi privati che la legge pone a 70 anni, ossia a 70 anni prima, quindi avremmo dovuto in qualche modo aspettare ancora, chiarissimo, aspettare ancora qualche anno. E quindi la memoria dell'Italia in questo archivio centrale dello Stato, la sede potrebbe essere trasferita in parte a Pomezia, 30 km da Roma. Questo ha creato qualche apprensione, ma abbiamo sentito quali sono esattamente e le problematiche che rendono la struttura piuttosto inefficiente, non solo costosa, perché quello che sta a cuore a chi ama veramente questi documenti non è tanto e soltanto il costo, ma la possibilità di conservarli nella maniera adeguata, accurata. E abbiamo sentito anche cosa vi si conserva. Non è possibile portare fuori questi documenti e queste schede, ma naturalmente chiunque sia maggiorenne può andare all'Euro, nella prossima visita a Roma potreste pensarci, e consultare quello che più vi sta a cuore. Ora cambiamo pagina completamente. Grazie Agostino Attanasio, arrivederci. Grazie a lei, buongiorno. E rimaniamo però in tema di memoria, perché ci spostiamo a Salemi, perché c'è un gioiello di memoria, in questo caso non solo italiana ma mondiale. È una cineteca, pensate, di 55.000 film, 55.000 titoli, in prevalenza sono in VHS, sono arrivati in Sicilia e ora giacciono dimenticate, cioè non è stato completato il progetto di trasferimento in digitale di questo patrimonio in VHS, che fu voluto dall'allora assessore Vittorio Sgarbi, ma dopo le dimissioni di Sgarbi l'amministrazione attuale ha lasciato che addirittura vi si creasse all'interno dello stesso edificio un canile abusivo. Giovanni Lettini, buongiorno. Buongiorno a lei. Quindi quando all'epoca sindaco di Salemi era Sgarbi, si volle portare questo gioiello, questa memoria in questa cittadina siciliana, e cosa comprende questa collezione? Tanto per dare un'idea, Giovanni Lettini. Stiamo parlando di una preziosissima collezione di circa, come ha detto, 55.000 film tra DVD e VHS, che in 20 anni Kim, che è uno yorkese coreano di origine, ha collezionato, diciamo, a New York nelle sue videoteche. E diciamo che la maggior parte di questa collezione su tutto il cinema indipendente americano e coreano, anche se parlando d'Italia c'è anche tutta la collezione del cinema italiano d'autore, c'è una parte dedicata a tutti i film di Fellini, c'è una parte, forse lui era amante dell'horror, quindi al di là dell'horror mondiale c'è una parte dedicata a Dario Argento. Ci sono i maestri russi. Sì, i maestri russi, ma poi c'è una stanza fantastica dove ha collezionato tutti i film, i cartoni della Walt Disney, oppure per quanto riguarda la parte orientale era molto bella, la parte dedicata alla storia dei manga, a tutti i cartoni dei manga. Beh, una meraviglia che non dovrebbe andare né dispersa né erosa da tempo in curia. Tra l'altro, quando Kim, diciamo, ha pubblicato un appello affinché un ente, un'istituzione, un mecenate si potesse occupare di questa collezione, con l'avvento di internet e della pirateria, diciamo che quel settore è andato in crisi, e quindi lui ha pensato bene di regalare questa intera collezione a un mecenate. E diciamo che in quel periodo ha risposto a questo appello una fondazione, che è la Fondazione Clio, che era in contatto con Oliviero Toscani, e quindi diciamo che Toscani si è fatto avanti, e Salemi, ricordiamolo, ha battuto sul tempo altre 30 città del mondo che volevano questa collezione. Poi tra l'altro vorrei precisare, siccome i giornali parlano sempre di impegni di spese esagerate, abbiamo un minuto Lettini. Vittorio Sgarbi, con soli 10.000 euro, che è stata solo la cifra del trasporto, ha fatto arrivare questo container che è sbarcato a Palermo nel 2009. Quindi poi tramite quel progetto che lei diceva non siamo riusciti a portare a termine, visto che Vittorio è stato cacciato da Salemi, i commissari, gli uomini di Stato non hanno portato a termine questo progetto, e diciamo la ciliegina sulla torta, la nuova amministrazione che è succeduta a questi commissari ha pensato bene di tenere alta l'attenzione su questo progetto mettendo un canile abusivo a cielo aperto. E questa è una denuncia importantissima, quella che lei oggi fa, Giovanni Lettini. Grazie, è possibile che non si trovi una sede alternativa, che l'Italia si curi così anche della memoria mondiale in termini di film che abbiamo a Salemi? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 9.07, ritorniamo con un'altra pagina di spunti di vista, anche se sono molti i vostri interrogativi sull'archivio centrale dello Stato e continuate a chiederci: ci sono le carte inerenti ai servizi segreti, le stragi da Piazza Fontana in poi ci sono? Senza dubbio tutti i verbali che sono usciti dalle commissioni sono presenti nell'archivio centrale dello Stato, che, lo ricordiamo, è consultabile, è visitabile, non si possono portare fuori i documenti, ma si possono consultare naturalmente sul posto. Visitate il sito perché moltissime di queste domande trovano risposta proprio lì. Noi ora andiamo a leggervi un altro documento, una proposta di legge che abbiamo davanti, Camera dei Deputati, numero 2495, risale al 26 giugno 2014, la firma Dorina Bianchi. Chi è Dorina Bianchi? Una deputata al nuovo centrodestra, e ha proposto questa legge che lega la cittadinanza all'aver frequentato in Italia le scuole elementari e medie, quindi senza aspettare i 18 anni come attualmente previsto dalla legislazione vigente. La cittadinanza, in alternativa, se questa proposta dovesse avere un seguito, diventerebbe qualcosa che si acquisisce dopo la frequenza di uno o più cicli scolastici per almeno 8 anni. Cioè, se si arriva più tardi, quando ormai le elementari sono fatte, qualunque iscrizione a scuola superiore, a laurea, al completamento di un ciclo darebbe il diritto a uno sconto sugli anni di residenza, e per scontare quei 10 anni che oggi sono richiesti per poter fare domanda di cittadinanza. È uno spunto per discutere di questa che è stata definita Ius Culture, che dice in sostanza: i nuovi italiani, i nuovi cittadini si vedono non tanto dal sangue, non tanto dal posto di nascita, ma da dove vengono socializzati maggiormente, cioè le scuole. E ci è sembrato uno spunto di estrema attualità in questi giorni in cui ci si interroga su quei giovani occidentali di origine islamica che lasciano la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Germania, il Belgio, probabilmente anche l'Italia, e approdano in Iraq o in Siria. In Iraq in questi giorni stiamo seguendo le vicende del califfato, per unirsi agli jihadisti, ai terroristi jihadisti. È chiaro che questo solleva un grandissimo punto interrogativo e sulle origini di questo tipo di scelte e sulla efficacia dei processi di integrazione in Occidente. E per parlarne abbiamo voluto scomodare qualcuno che conosce molto bene il Medio Oriente e questo tipo di personalità proprio. Domenico Quirico, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Domenico Quirico, come sapete, è stato per ben 152 giorni nelle mani di questi jihadisti. Il tuo libro, Il Paese del Male, è un libro che veramente squarcia un velo terribile su quello che gli esseri umani riescono a, così con banalità quasi, per ricalcare la banalità del male della Rent, a fare. E se tu dovessi ricordare quei giorni, ti ricordi che tra i tuoi carcerieri ci fossero accenti occidentali? Tra i miei carcerieri direttamente no, ma io ho incontrato nei miei 5 viaggi in Siria un numero estremamente elevato di combattenti che venivano da paesi, giovani combattenti che venivano da paesi occidentali, francesi, belgi, inglesi, americani. Italiani? Italiani non l'ho trovati lì, so che c'era un italiano che faceva il jihad, ma in Somalia, qui avevo anche scritto nome e cognome, quasi certamente ci sono anche italiani. Questa è una realtà che, come dire, era ben nota da tempo, cioè la vicenda terribile dell'uccisione del collega americano Foley da parte di un jihadista inglese, che ha sorpreso tutti come se fosse una sorta di scoperta terrificante. In realtà tutti coloro che, come dire, conoscono davvero la Siria, non ne chiacchierano così tanto per sentito dire, non erano sorprese, dici? No, sì, le brigate dei combattenti jihadisti sono formate in gran parte da stranieri, naturalmente la maggior parte viene da altri paesi diciamo islamici o arabo musulmani, o anche dall'Asia centrale o anche dal più lontano, ma ci sono formazioni che spesso sono considerate le più determinate, le più, una parola, feroci nel jihad, formati da giovani combattenti europei, attenzione, come ho detto, europei con passaporto europeo, non quelli che noi chiamiamo clandestini, chiaro. Vivono. È gente che è nata, viene dall'immigrazione di seconda, terza, quarta generazione, che è nata, è cresciuta, ha studiato nei paesi occidentali. E personalmente mi ricordo un gruppo, una catima di giovani francesi di Tolosa, con cui avevo chiacchierato abbastanza amabilmente, e che mi avevano raccontato che erano venuti a combattere in Siria il jihad, perché in Siria era il loro dovere, venivano uccise donne, bambini, vecchi, e quindi ritenevano che fosse il loro dovere religioso andare a combattere il jihad. Poi tutto questo si è complicato ulteriormente nel momento in cui diciamo è nata questa formazione che noi chiamiamo califfato, che è poi una sorta di evoluzione tra virgolette di Al-Qaeda, ma un'evoluzione molto più complessa, molto più ambiziosa e molto più pericolosa. Nel tuo libro parli spesso di attività illecite coperte, questa è la tua definizione, con una vernice islamista. Cosa intendi dire, Domenico Quirico? Ma intendo dire che nell'orribile calderone di quella che adesso è Siria e Iraq, ma ai tempi in cui io sono stato sequestrato era soprattutto la guerra civile siriana, ci sono formazioni che utilizzano bandiere jihadiste o bandiere genericamente rivoluzionarie o anti Bashar, antiregime, che in realtà coprono semplicemente attività di esazione, di furto, di sequestro, banditi che utilizzano la guerra civile per i loro scopi lerci e che nulla hanno a che fare né con la rivoluzione né col jihad, ma questo è un po' una caratteristica di tutte le guerre civili, anche quelle che ahimè si sono verificate presso di noi in epoche non preistoriche, parlo del 43-45, insomma, dove era pieno di falsi gruppi di partigiani o di falsi gruppi di brigatisti neri o di altre cose che in realtà andavano coprivano, a rubare le cascine o rubavano i loro interessi con una vernice che potesse avere una legittimazione, un fenomeno non nuovo nella storia. Ma tipico di tutte le guerre civili sotto in qualsiasi epoca e in qualsiasi luogo del mondo. Sul Wall Street Journal, che ti ha anche intervistato, c'è il racconto del responsabile del blog online per cui lavorava James Foley. È molto toccante perché dice: noi sapevamo che non avremmo mai raccolto i 120 milioni di dollari che ci chiedevano, però ne avevamo raccolti quasi 5, speravamo che questo avrebbe ammansito in qualche modo i carcerieri di Foley. E poi si dice: se Foley fosse stato europeo, italiano, europeo, forse a quest'ora sarebbe ancora vivo, perché sanno che con noi europei si tratta, mentre invece l'America, che fa il muro contro muro, poi porta a questo tipo di esiti finali. Ma tu trovi sia vero? Oh, io sono, dico una cosa un po' forte, secondo me Foley era condannato a morte nel momento stesso in cui è stato preso. Cioè, questa storia dei 100 milioni, poi non lo so, perché come dire, non ho degli elementi diretti per dire, devo stare a quello che viene raccontato, ma il problema è che, come dire, l'uccisione di Foley ha un per i jihadisti, almeno per coloro che loro mi hanno raccontato quando ero con loro, ha diciamo una duplice direzione. Una prima direzione è ovviamente nei confronti degli occidentali, cioè di noi, diciamo una dimensione terribilmente classica del terrorismo, cioè spaventarci, far vedere un occidentale che viene sgozzato in diretta davanti ad una videocamera, è un modo per creare paura, che è lo scopo diciamo tradizionale, ancestrale direi del terrorismo, ma è uno scopo totalmente secondario. Quindi anche la eventuale richiesta dei 100 milioni, l'enormità della cifra dimostra l'inconsistenza. Questi non sono, come dire, degli ingenui, sanno benissimo che l'America non paga, che l'Inghilterra non paga, che altri paesi invece trattano, eccetera. Quindi il loro problema non era estorcere la maggior quantità di denaro con Foley, il loro scopo era un altro, cioè la seconda direzione del loro orribile disgustoso, tremendo, esecuzione in diretta di Foley, era diretta verso il loro mondo, perché mostrare la loro capacità di ammazzare, di scannare come una bestia un occidentale, provoca automaticamente nel loro mondo di riferimento una forma di consenso, di imitazione, crea nuovi militanti. Questo è lo scopo dell'esecuzione di Foley, non prendere 100, 200, 300, 400 milioni di dollari agli Stati Uniti, che sappiamo benissimo non avrebbero mai pagati, e creare consenso attraverso l'esibizione orribile della loro capacità di nuocere su un occidentale, su un americano in particolare. Questa è la chiave, secondo me, in cui bisogna leggere questa tremenda vicenda. Foley era condannato a morte, non per quello che poteva essere, per quello che aveva scritto, per quello che e per quello che era. Questo è l'elemento chiave dell'orribile cosa che sta nascendo a due ore d'aereo da noi, il nuovo totalitarismo. Un nuovo totalitarismo. L'uomo è condannato non per quello che fa, ma per quello che è, perché è scritto nella sua identità, nella sua biografia. E per questo viene ucciso, squarciato, ammazzato, torturato. Questa è la realtà tremenda di quello che sta accadendo nel Vicino Oriente e in tutto il mondo della grande ribellione jihadista, che va, ahimè, dalla Nigeria all'Asia centrale, dall'Afghanistan al Kenya. Quindi, Domenico Quirico, queste immagini terribili, alcuni hanno detto, non dovevano essere fatte circolare, abbiamo fatto il gioco degli jihadisti mostrandole, erano rivolte, secondo te, non tanto al target occidentale, ma lo scopo era il proselitismo, mostrare quanto si poteva fare. Il rovesciamento dei rapporti di forza. Noi siamo in grado di prendere un occidentale e scannarlo come una bestia davanti a una videocamera e gli altri non possono fare nulla. Noi siamo in grado di fare questo e questo crea, e bisogna ammetterlo, in una parte di questo mondo che è attentissimo a queste cose, perché ormai qui noi ci immaginiamo i jihadisti come della gente che sta tutto il giorno alla moschea ciabattando e salmodiando i versi del Corano, ma è mica così, è gente che vive immersa nel mondo contemporaneo, nella sua tecnologia, nei suoi strumenti di comunicazione. Cioè, Obama ha detto una cosa che è estremamente stupida, cioè che il jihadismo non appartiene al ventunesimo secolo. No, è il contrario, è il prodotto del ventunesimo secolo, è chiaro. Sì. È uno degli elementi importanti purtroppo del ventunesimo secolo. Domenico Quirico, c'è proprio questa sensazione, ma c'era già nel 2001 dopo l'attentato alle Torri Gemelle, quando si scoprì che nella CIA nessuno parlava l'arabo, per cui c'erano delle interpretazioni assolutamente fantasiose di questi, che c'è questa proprio sensazione di non conoscenza totale in mezzo alle immagini terribili che arrivano a noi in Occidente, in mezzo a fiumi di inchiostro che si scrivono, c'è questa sensazione di mancata comprensione proprio di fenomeni culturali di questo mondo. E tu recentemente sei stato in Iraq e l'Italia anche recentemente ha deciso di affiancare i curdi peshmerga mandando loro delle armi, tra l'altro nemmeno nuove, intendo dire, erano state sequestrate durante la guerra dei Balcani. Ma come vedi tu questa scelta? È una scelta, è la strada da percorrere? Come si può, se non uscire, come si dovrebbe reagire a questa situazione che si è creata dal tuo punto di vista? È chiaro che nessuno ha... Ho i miei dubbi che i curdi, che i peshmerga curdi possano, come dire, risolvere i nostri problemi, nel senso che i peshmerga curdi probabilmente possono in qualche misura contenere l'espansione di quello che è il califfato, ma i peshmerga è gente che combatte per la propria casa, il proprio campicello, la propria montagna, non andrà mai a riprendere Mosul, non entrerà in Siria per... andare a Raqqa, a Deir ez-Zor, ad altri luoghi che fanno parte ormai di questo immenso stato nuovo, che è lo stato califfale, lo stato jihadista. Per cui non credo che ci sia qualcuno che farà gli ascari per noi, insomma, ecco, che si toglierà dallo scomodo di dover come dire, accollarci, metterci sul gobbone questa tremendo problema che è costituito dal dall'insurrezione islamista mondializzata, ecco questo. Cioè, due o tre salire all'epoca dell'attentato di Brody Gemelli. Ecco, forse il problema è proprio qua, cioè che noi continuiamo a considerare tutto questo in termini di terrorismo. Il terrorismo è un fenomeno, non perché non lo sia nel, diciamo, dal punto di vista di un giudizio morale dei metodi orrendi che utilizza, ma perché il terrorismo è un fenomeno minoritario, è qualcosa che può indubbiamente provocare dei danni terribili, fa morire un sacco di gente, però è un fenomeno, come posso dire, di polizia, cioè piccoli gruppi che si infiltrano, che mettono bombe, che mettono autobombe, che nascondono le senters nei tombini piuttosto che nelle cestine dei rifiuti, sì, delle nostre città. Invece? Questo è un problema militare, cioè la sfida che ci viene apertamente, che è stata apertamente lanciata dal jihadismo armato, dal jihadismo statualizzato, è una sfida diretta, territoriale, una sfida classica, come dire, esercito contro esercito, potenza contro potenza, territorio contro territorio. Questo è un fenomeno totalmente diverso rispetto persino alle ambizioni più sfrenate di Bin Laden. Non ha mai avuto uno stato suo, non ha mai avuto un territorio suo che controllava, era sempre ospite di qualcuno, doveva coordinare i suoi folli, neanche tanto folli, tentativi di nuocerci con qualcun altro, i talebani, i sudanesi, eccetera, eccetera. Questa è una sfida completamente nuova. Completamente nuova, per cui il termine di terrorismo è fuorviante, nel senso che dà l'impressione che, vuol dire, che sia un minoritario gruppo sparuto di ribelli, di gente uscita da epoche ormai superate, che, come dire, degli strampalati, cioè, e, come dire, il jihadismo non è un problema psichiatrico come cerca di far credere qualcuno, è un problema politico, è un problema militare, e sono due piani molto diversi. Ho l'impressione che l'Occidente non se ne sia ancora accorto, o se ne è accorto, cioè, oddio, le elite occidentali se ne siano accorti, ma la complessità, il carattere estremo delle scelte che devono prendere in un'epoca di scarsa carisma dell'elite, li spinga piuttosto a far finta di non aver capito. Sì, di continuare, sì, a ragionare in termini, diciamo, tradizionali, di lotta al terrorismo, allora individuiamo tizio, cerchiamo Caio, il nostro problema è ammazzare i capi, come dire, che poi in realtà sono sostituiti il giorno dopo. Il drone americano sbriciola Abubakar al-Baghdadi, domani mattina ne fanno un altro. Chiarissimo. Il problema non è affatto cambiato. Grazie a Domenico Quirico per questa testimonianza oggi su Radio 24, inviato della Stampa, come sapete, per 152 giorni prigionieri in Siria. Ne è stato tratto questo libro eccezionale, un libro che di difficile lettura senza dubbio, ma che merita di essere letto. Si chiama Il Paese del Male e racconta ciò che si preferirebbe non sapere, ha scritto il Corriere della Sera, sulla più difficile delle condizioni umane, quelle in balia dell'odio altrui. Per loro, per i banditi, racconta Quirico, non ero più un giornalista, ero diventato io, l'altro, il nemico, e ci sono passaggi durissimi da apprendere sulla vita quotidiana da prigioniero, dal cibo gettato per terra, le botte, le finte esecuzioni con la pistola puntata contro e la speranza che fa a pugni con la ferocia di chi ti ha tolto la libertà. Ma sono testimonianze molto importanti perché raccontano il punto di vista dell'altro. Buongiorno a Francesco Zannini. Buongiorno, professor Zannini. Buongiorno. Il professor Zannini lavora al Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica. Ora, tutto quello che abbiamo sentito finora, cosa ha a che fare? Torno con la domanda elementare sollevata da queste testimonianze, anche la vicenda di Domenico Quirico. Cosa ha a che fare con l'Islam? Dunque, innanzitutto ho trovato, grazie della questa possibilità che mi viene offerta di poter comunicare con il pubblico, io ho trovato innanzitutto molto interessante l'intervento di Domenico Quirico. Particolarmente due aspetti mi hanno colpito in maniera particolare quando ha parlato di nuovo totalitarismo e di un problema che va al di là di una questione religiosa, ma che è un problema politico e militare. Qui ci troviamo da una parte da un nuovo riassetto di tutto il Medio Oriente, sia come interessi particolari, sia come interessi globali e geopolitici, anche perché questi jihadisti, questi combattenti, lo stesso califfato non può essere solo. La potenza militare, l'investimento di armi, sì, si può parlare anche di vendita di droga o di cose simili, tra l'altro contro la tradizione dell'Islam stesso, ma c'è qualcosa di più dietro. Questo è molto importante anche per capire il rapporto che ha con l'Islam tradizionale. Però appunto quello che ormai è messo a repentaglio è l'immagine in generale, soprattutto in Occidente, dell'Islam, perché poi quello che questi jihadisti fanno viene attribuito totalmente all'Islam. Quindi questo noi vorremmo capire da lei. Cosa ha a che fare con l'essere musulmano tutto ciò? Quello a cui fanno appello questi jihadisti, questi movimenti tipo terrorista, eccetera, è a una parte della tradizione islamica che è la tradizione piuttosto militare, che è poco presente, diciamo, anche se sono state guerre anche durante il periodo proprio formativo dell'Islam, durante la vita di Muhammad, eccetera, ma dimenticano tutto un discorso molto più complesso che è il discorso religioso. Il discorso religioso che sì è fatto anche di messaggio di conversione all'Islam, che è fatto anche di tolleranza. C'è il Corano, dice al capitolo secondo, la sura seconda 256, non c'è costrizione nella religione, non puoi obbligare la fede, sì, con la violenza. Sì, poi ci sono, rimanga con noi professore, perché dobbiamo interromperci per un attimo, ritorniamo naturalmente a completare questa pagina per poi andare a vedere come, che effetto ha questo anche sui processi di integrazione nei diversi paesi occidentali, Italia in prima linea. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E siamo ancora qui alle 9.32 a chiederci cosa ha a che vedere tutto questo con l'Islam. Ci ha raccontato Francesco Zannini di aver... ancora con noi, professore? Sì, sono ancora con lei. Di aver proprio in questi giorni, in un articolo, incontrato un amico del Bangladesh musulmano che è riuscito a far finanziare una cattedra di religione cattolica per il dialogo interculturale, interreligioso. Quindi ci sembra di capire diversi aspetti, diverse facce che poi naturalmente vengono unificate e fatte passare tutte come sostanza unica, professore. Sì, io ripartirei da quello di cui parlavo prima, cioè non bisogna dimenticare che l'Islam nasce nella sua prima fase proprio come religione, non come progetto politico, e addirittura ha i suoi martiri nei primi 10 anni. In un secondo momento, quando Muhammad avrà questo impegno di guidare una città, di diventare arbitro, in questo momento che poi cominciano ad entrare elementi politici e militari, lo stesso jihad, che significa in se stesso sforzo, è una guerra difensiva, poi verrà tutto questo usato per interessi particolari, per convincere la gente a combattere in nome della fede, eccetera, migliore e qui si va avanti in questo senso. D'altra parte c'è un altro elemento che mi pare molto importante. Si parla molto spesso in maniera impropria di torniamo nel Medioevo. Magari tornassimo nel Medioevo islamico, un Medioevo che era pluralista, in cui c'era il dibattito, eccetera, in cui l'Islam non era una ideologia. Perché il problema è questo. Mi è piaciuto l'intervento del non quando si diceva nuovo totalitarismo, proprio perché il Maudud, il fondatore Jamaat Islam, non fa difficoltà a dire che l'Islam, per contrapporsi all'Occidente, deve essere un'ideologia. È un'ideologia che si contrappone al comunismo, al capitalismo, in un momento in cui le ideologie sono cadute e le utopie e le ideologie vengono presentate da questi jihadisti. È chiaro che c'è un senso di desiderio di appartenenza che attira dei giovani. Ritorniamo al discorso però di sì, esiste nel mondo islamico, esiste tutto un mondo di persone e che io ho documentato anche in vari articoli, di persone impegnate nel dialogo interreligioso. Non si parla, si parla pochissimo delle numerose iniziative partite proprio dai musulmani. Parlavo, lei ha citato questa cattedra eccetera, ma non è l'unica volta che succede questo. Abbiamo addirittura firme di accordi tra università islamiche e università teologiche pontificie per scambio di insegnanti eccetera. Abbiamo tutto un mondo di persone che combattono per la giustizia e per i diritti umani. Ho conosciuto personalmente Chandra Muzaffar in Malesia, gente che dà la vita proprio in maniera concreta, gente che è stata in prigione per promuovere la tolleranza, il rispetto delle minoranze, eccetera. Iniziative in tutto il mondo islamico, movimenti femminili, eccetera. E tutto questo viene dimenticato proprio nel momento in cui si sottolinea la parte violenta dell'Islam, eccetera. È chiaro che entrando poi l'elemento politico e geopolitico ha più inevitabilmente più risalto. E ci chiediamo appunto, questa situazione può in qualche modo inquinare ancora di più quello che era già il difficile processo di conoscenza reciproca qua nei paesi occidentali? Fouad Aoudi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Dottore, perché Fouad Aoudi è un medico ed è il presidente di COMAI, cioè la comunità del mondo arabo in Italia. Noi l'abbiamo avuto ospite anche l'anno scorso, quando si paventava, si temeva un possibile bombardamento della Siria da parte degli Stati Uniti, e ricordiamo i suoi interventi per far arrivare farmaci, per far arrivare aiuti sanitari, non solo in Siria, in Libia, in tutte le zone calde del Medio Oriente. Oggi, in questi giorni, si parla di questa presenza degli occidentali in Iraq, in Siria, in Libia. Le fonti mediche e giornalistiche locali, che voi tante volte avete come pazienti dei feriti stranieri, avete mai accertato la presenza di questi occidentali? Sì, purtroppo l'anno scorso siamo stati per primi a lanciare l'allarme della presenza di occidentale in Siria, in Iraq e in Libia. Proprio Gheddafi utilizzava proprio eserciti specialmente provenienti dall'Africa, e tramite un'intervista proprio all'ANSA, che hanno voluto approfondire con noi e questo aspetto, l'abbiamo lanciato. E purtroppo in questi mesi il fenomeno si è triplicato e non è stato preso in considerazione dall'inizio, perché c'erano vari segnali e varie notizie che arrivavano e confermavano la presenza di occidentali. Da queste fonti mediche, noi sentiamo sempre fonti mediche, perché indipendentemente dal parere politico di ognuno di noi, che può essere pro o contro, ci dicono di cifre molto molto preoccupanti. Più di 22.000 occidentali sono passati in Iraq, Siria, Libia in questo anno. Occidentali? Stranieri o occidentali? No, di origine straniera, di origine straniera, che hanno più di 55 nazionalità, e di questi sono più di 6.000 occidentali. E per la presenza anche di tanti chi sono? Italiani. Chi sono anche questi italiani e questi occidentali? Chi sono secondo lei? Allora, sono la maggior parte, il 75-80% non sono di quella quella categoria che si parla molto della seconda generazione o musulmani che tornano lì, sono parecchi che vanno lì proprio come lo prendono come lavoro, non per un'ideologia politica o religiosa. Io concordo con la frase che mercenari. Ringrazio Domenico che ha detto, l'analisi più approfondita che ho sentito stamattina nel suo intervento, che il problema non è religioso, il problema è politico e va risolto politicamente, perché tutti questi movimenti che nascono oggi tocca all'ISIS e domani chissà, se non vengono risolti politicamente nasceranno, e allora l'Occidente se ne è accorto molto tardi. Molto tardi. Ancora, questa frase mia che me la ricordo l'anno scorso, che l'Occidente ancora non se ne è accorto di quello che è successo nelle primavere arabe. Le primavere arabe all'inizio non sono stati appoggiati come dovevano essere, per questo nel voto che ha lasciato la politica, la diplomazia mondiale, non capiamo la posizione dell'America, ha deciso di non decidere, non ha fatto niente per quanto riguarda azioni diplomatiche. Noi musulmani non riconosciamo questi movimenti, ci chiediamo noi, tutte le comunità arabe in Italia, ma chi sono questi? Chi sta dietro a loro? Ma qual è l'Islam che parlano? Non è l'Islam autentico. La seconda generazione è schiacciata da queste notizie terrificanti. La seconda generazione va accompagnata. Ci sono quella categoria di seconda generazione, ma non in Italia, in Inghilterra, in altri paesi, che vivono nel paese ma non sono per niente integrati. Non imparano la lingua inglese, non imparano la cultura inglese. Noi stiamo lavorando da anni. È dal 2001 che chiediamo la cittadinanza per i figli nati e immigrati temporali, cioè nel senso proprio dopo quello che ha detto lei, dopo un ciclo scolastico. Per questo io spero che la diplomazia mondiale esca dal coma e se ne accorge in tempi reali che c'è un fenomeno molto pericoloso. E i processi di integrazione, secondo lei, Fuad Audi, potrebbero in qualche modo arginare questa spinta al ritorno al paese d'origine, che tra l'altro tante volte nemmeno si conosce? Tantissimi quelli sono partiti per la Siria, per il Pakistan in passato, per dei training, dei campi di Al-Qaeda, erano ragazzi occidentali che nemmeno avevano mai visto, tant'è che a volte hanno avuto anche dei problemi con le autorità locali proprio per come interpretavano l'Islam, così per questo senso di discriminazione che a volte cresce nei paesi occidentali. Si alimenta questa rabbia, questo senso di esclusione, allora ci si attacca alle radici, a queste radici che tante volte nemmeno si conoscono. Grazie Fuad Audi. Tre categorie della seconda generazione, chiudo. Quella che si integra nel paese dove vivi, quella che non si integra per niente e quella che si integra imparando le sue origini. Noi vogliamo la terza categoria, che è la più facile e non si possono utilizzare per forme terroristiche come vediamo qualche... Ci elenchi ancora la terza categoria, dottor Audi? Come l'ha noi definita? Lavoriamo sulla terza categoria, sarebbe a dire la seconda generazione nati in Italia, ma insegnare a loro anche le loro origini, la loro rispettando lingua, le origini e la lingua, un po' il modello di altri paesi dove queste tensioni non esistono nonostante la maggioranza e i maggiori numeri delle migrazioni. Stiamo pensando per esempio al Canada. Grazie a Fuad Audi, è un medico e l'avete sentito dalla sua testimonianza, un punto di vista diverso da quelli che si trova sui giornali, cioè le corsie degli ospedali. Sì, la presenza occidentale c'è, è massiccia, è numerosa, e questo apre tutta una serie di considerazioni sull'integrazione. Quanto costa non integrare le persone? Siamo partiti da dei numeri all'inizio di questa trasmissione che riguardano quanto l'immigrazione porta nelle casse dello Stato, un beneficio che si può quantificare in 1.400.000.000 di euro. Come si ottiene questo numero? Il rapporto tra la spesa pubblica per l'immigrazione e i contributi previdenziali e le tasse pagate dagli immigrati dall'altra parte. Quindi anche nell'ipotesi meno favorevole di calcolo, cioè quello della spesa pro capite, gli introiti dello Stato riconducibili agli immigrati, stiamo parlando solo di Italia qui, sono stati pari a 13,3 miliardi, mentre le uscite sostenute per loro sono state di 11,9. La differenza in positivo per il sistema paese? 1 miliardo e 400 milioni. Questo risponde un pochino all'obiezione secondo cui l'integrazione degli immigrati costa troppo all'Italia in termini economici proprio. Secondo gli autori di questo dossier non c'è riscontro su questo. Questo è un dossier delle ricerche IDOS, quindi hanno redatto questo dossier statistico di immigrazione per la presidenza del Consiglio. Oggi in Italia sono 5.186.000 gli stranieri regolarmente presenti. E tra l'altro rappresenterebbero questo beneficio di 1,4 miliardi di euro, ma soprattutto se non si spendesse per integrarli negli anni, sul lungo termine, che prezzo si pagherebbe? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Motivo in più per non fare le moschee, ci scrive qualcuno all'SMS, e poi c'è chi ci dice attenzione, questa non è altro che la fotocopia delle crociate cristiane, la storia insegna. 349-238-6666, questo è il numero a cui digitare il vostro messaggio. Si capisce l'esasperazione, si capisce l'amarezza, ma siamo proprio sicuri che sia quella la strada? Non fare le moschee, spingere magari nella clandestinità, ancora più difficile da gestire e da controllare nei paesi occidentali, delle spinte che evidentemente ci sono. Comunque noi vogliamo sentire la vostra opinione prima di tornare a parlare con i nostri ospiti, e cominciamo con Johnny che aspetta da tantissimo in onda. Pronto, buongiorno Johnny. Buongiorno, chiamo da Recanati. Leopardi. Giacomo Leopardi. Sì, dica Johnny. Mi aspettavo da tempo, io lo sento solo 24 ore, sento la radio vostra, perciò potevo sentire anche sulla radio in diretta, ma adesso ti sentivo per telefono. Niente, io ti volevo dire la mia testimonianza, no? Dici Johnny, vieni al punto, perché abbiamo poco tempo e vogliamo dare la parola a tanti. Stiamo parlando per integrazione, sì, la comunità sì. Albanese, io sono un cittadino albanese sì. Da oltre tanti anni, dal 98 a Recanati, integrato sia culturalmente, perché l'Albania si sa culturalmente è vicina all'Italia, questo non è poco ma è sicuro, e allora integrato anche nella politica. Io faccio parte della sinistra, ero candidato per consigliere comunale di Recanati con la PD, per fatto del passaporto che non mi è arrivato, della cittadinanza, diciamo da oltre 3 anni che aspetto la cittadinanza. Purtroppo sono rimasto fuori. Comunque il fatto della cittadinanza o non cittadinanza o dell'integrazione, questo mi pare un po' burocrazia, perché o ne sono io integrato più di tutti, diciamo tra virgolette di tutti, sono nella fascia più alta integrato tutto quanto, con gli scambi culturali che ho fatto con la deputata Irene Manzi e Khalid, lo conoscete bene, e purtroppo io ancora devo... Ancora non vieni riconosciuto, no, Johnny, è molto molto chiara questa situazione di limbo. Tanto fra i nostri figli integrati, mio figlio quando mi ha cantato inno dell'Italia, dei Mameli, io mi è scappate le lacrime a dire la verità, mi ha detto babbo, io adesso ho imparato il mio inno, prossima volta ne imparo il tuo. Loro sono integrati, però non esistono dal punto di vista della cittadinanza. Grazie a Johnny, buona giornata naturalmente a Recanati. E non è un problema da poco quella della mancanza del documento, lui non ha potuto permettere la partecipazione attiva alla vita politica, e anche questo è importantissimo, perché se la democrazia è partecipazione, fino a che si troverà una sede di diversa e migliore di questa imperfetta democrazia, mi sembra che le sedi della partecipazione a livello comunale, a livello provinciale, a livello locale, insomma, siano ancora quelle in cui più ci si può confrontare con quelli che sono gli effetti di una partecipazione attiva. E a Johnny questa possibilità è stata negata. Sentiamo cosa ha da raccontarci invece Giovanni da Vicenza. Buongiorno, pronto? Sì, buongiorno. Scusi per la lunghissima attesa, dica. Pazienza. Niente, io volevo dire che riguardo a quel professore che ha parlato prima, che diceva che nella seconda sura del Corano c'è scritto che non si può imporre la religione, eccetera. Sì, questo può essere che sia vero, però dopo, più avanti, nella nona sura, Maometto scrive, se mi permette le leggo il versetto. Beh, ce lo sintetizzi se è lunghissimo, se no ci dica il senso, insomma, questo ci interessa, poi lo cercheremo. Sì, sì, ecco, nella nona sura dice che i politeisti, che saremmo noi perché abbiamo la Trinità, no? Hanno solo la possibilità di pentirsi, perché se no andranno incontro a un doloroso castigo, e per il fatto di essere politeisti, cioè nel credere nella Trinità, noi siamo considerati miscredenti. E poi nel versetto 5 dice uccidete questi associatori. Associatori vuol dire coloro che associano a Dio un'immagine, no? Perché per i musulmani è importante che non sia mai rappresentato sì, con un'immagine. Esatto. E quindi Maometto dice, cioè Allah ispira Maometto a scrivere: uccidete questi associatori ovunque li incontriate, catturateli, assediateli e tendete loro agguati. Se poi si pentono, sì, dopo che li hai ammazzati possono anche pentirsi, no? Se poi si pentono e quindi secondo lei non c'è possibilità di dialogo, visto che non nella sura trova questo. Noi siamo associatori, siamo miscredenti, capito? E quindi se non ci convertiamo possiamo essere uccisi. Grazie all'ascoltatore da Vicenza, dottor Zannini. Dunque lì il problema è che il nostro ascoltatore è una bravissima persona e quindi conosce anche il Corano, solo che ha dimenticato di fare di vedere in profondità il testo, vedere la distinzione che nel Corano esiste tra politeisti, miscredenti e poi cristiani, giudei, eccetera. In quanto che politeisti e miscredenti rappresentavano le tribù aggressive nei confronti dell'Islam, quindi siamo già in una seconda parte, a parte che i miscredenti e i politeisti erano coloro che fin dall'inizio hanno ostacolato l'Islam, poi una seconda parte, una parte diciamo. Quindi non i cristiani in quanto adoratori della Trinità, perché invece appartengono al libero. Questa è l'interpretazione attuale fatta dai fondamentalisti per indurre i cristiani, nei confronti dei cristiani c'è un sospetto di deviazione, quello di Tahrif, di avere toccato le scritture in maniera a tale da cambiarle, ma il testo per esempio 5 della versura 582 dice troverai che i più prossimi nell'amore per i credenti sono coloro che dicono in verità siamo cristiani, perché tra loro ci sono uomini dediti allo studio, monaci e non hanno alcuna superbia. Poi ci quindi, sono altri versi, gli ebrei. Benissimo, dottore, professore Zannini, abbiamo sottolineato questa vicinanza comunque riconosciuta anche dalle scritture tra le religioni del libro, cioè ebraici, cristiani e musulmani. Al di là delle disquisizioni teologiche, noi ora vorremmo capire con i nostri ospiti non solo il valore dell'integrazione, ma quanto costerebbe non integrare, visto che alcune cifre dal punto di vista economico le abbiamo date. Abbiamo sentito da Johnny una albanese che ci ha segnalato la sua situazione in Italia dal 98 con la voglia di partecipare, col figlio che canta l'inno nazionale, come spesso i figli di seconda generazione che si dimostrano più attaccati ai valori italiani a volte dei loro stessi connazionali italiani, e si trovano in questo limbo. In mezzo la proposta di legge che non viene, attenzione, dalla sinistra è questo, ma da un deputato del nuovo centrodestra, Dorina Bianchi, che dice una mediazione è questa: attenzione, ius culturae, cioè la cittadinanza va data non come adesso con un'attesa incredibile di 10 anni, poi scatta la domanda e poi comunque, come avete sentito anche dalla testimonianza in diretta, bisogna aspettare altri anni per averla, ma vada fatta protetta per coloro, vada concessa a coloro che hanno frequentato scuole elementari e medie in Italia, o se sono arrivati dopo, che abbiano comunque completato dei cicli scolastici, perché quella è la maggiore garanzia di aver assorbito in qualche modo quelli che sono i valori di un paese e di avervi aderito. E ringrazio e saluto Franco Pittau, coordinatore del Centro Studi e Ricerche di IDOS. Buongiorno. Buongiorno. Voi avete stilato questo rapporto che i nostri ascoltatori stanno contestando via SMS, dicendo che comunque sono maggiori i costi per l'immigrazione e di quello che invece noi abbiamo come beneficio come sistema paese dall'immigrazione. Avete stilato questo rapporto, ma siete partiti con una tesi preconcetta, cioè voi volevate dimostrare che l'immigrazione era un beneficio per l'Italia? No, noi siamo molto umilmente artigiani dei dati statistici, cerchiamo tutte le fonti, puliamo i numeri e vediamo cosa dicono. Quindi quando ci accingiamo a scrivere il rapporto, il dossier statistico di immigrazione, che l'anno scorso abbiamo iniziato a farlo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, noi non sappiamo ancora che cosa arriveremo, perché bisogna partire senza pregiudizi. La tesi che noi abbiamo è insita in tutti i vari archivi, quindi noi siamo dei lettori attenti, dei lettori magari che facendo questo professionalmente hanno la possibilità di vedere tutti i numeri e vediamo. E allora questo che magari qualcuno ha contestato viene fatto anche in altri paesi. Negli altri paesi si arriva, specialmente di tradizione anglosassone, si arriva alla conclusione che gli immigrati che là hanno una lunga fase di inserimento societario tanto costano allo Stato e tanto prendono dallo Stato. In Italia la cosa è differente, perché l'immigrazione non è nata ieri e però non ha una lunghissima storia, dalla metà degli anni 70 poi è continuato con un crescendo, quindi noi non abbiamo tantissimi anziani e questo influisce moltissimo sulle spese. Essendo giovani abbiamo anche una bassa incidenza sulle spese sanitarie, che sulle spese dello Stato hanno un peso. Insomma, si arriva a questo saldo di 1.400 milioni. Dice, lo contesto, noi là abbiamo indicato le fonti e abbiamo utilizzato il calcolo che meno favorevole agli immigrati, perché lei prima ha citato la spesa pro capite, però noi le spese per i professori, per gli insegnanti elementari le dividiamo per gli alunni, però è chiaro che in una scuola dove ci sono già 20 alunni italiani, poi ne vanno 3 immigrati, non è che influiscono sulla spesa. Chiaro. Per i grazie, dobbiamo proprio salutarci e chiudere. Purtroppo, Franco Pittau, siamo al termine. Noi torneremo con Spunti di Vista domani mattina alle 8:10. Grazie per averci seguito. Da Irene Zerbini.